Ad alta voce, Ferdinando Bruni legge L'onda dell'incrociatore di Pierantonio Quarantotti Gambini. I giorni seguenti, Ario vide Lidia dalla mattina alla sera sul pontone della Virtus. Pareva non uscisse più, ma non si mostrava seccata. Girava in scarpette bianche per terrazze e ballatoi, canticchiando, e sostava a lungo sulla zattera d'approdo a chiacchierare coi canottieri. «E con Eneo non si incontra più?» aveva domandato Ario a Berto. «Mamma dice di no». Ario li vedeva qualche volta assieme, lì sulla zattera, ma sembrava che Lidia discorresse con Eneo come con qualsiasi altro. Spesso, anzi, si tratteneva in sua presenza coi canottieri e rideva e fumava le sigarette che le offrivano e di lui sembrava non accorgersi neanche. Nelle ore che il pontone rimaneva deserto, si avvicinava anche ad Ario. «Come va?» gli domandò un giorno, e gli guardò i calzoncini. «So che diventi un mezzo campione». Ario si sentì turbare da quello sguardo e non seppe cosa rispondere. «Mi piace vederti così», soggiunse Lidia prima di allontanarsi, e gli sfiorò il braccio con la mano. Egli la seguì a lungo con lo sguardo. «Se sapesse», pensava, attratto da come le ondeggiava la gonnella, «che Berto mi ha raccontato, che so tutto di quella notte», e le osservava le gambe brune. Si trovarono assieme sempre più spesso. Ario sentiva crescere, appena incontrava i suoi occhi, di lontano un leggero orgasmo, ed era tentato di tornare indietro o di schivarla. Finiva invece per fermarsi, e Lidia, sorridendo, gli domandava che cosa avesse fatto in quelle ultime ore. Talvolta si mettevano vicini e guardavano in silenzio le barche o stavano ad ascoltare la maretta. Quando si lasciavano, Ario aveva sempre l'impressione che gli occhi di lei lo guardassero, seri e ridenti insieme, fino in fondo alle pupille, e si allontanava con un calore strano. Poi si accorse che ella lo guardava in quel modo, socchiudendo impercettibilmente le palpebre, ogni volta che si incontravano. Egli trascorreva ormai tutte le sue giornate alla Virtus. Berto, che quando era libero e non usciva in barca s'occupava sempre più di Eneo, non stava quasi mai con loro. Egli si avvicinava ad Ario e a Lidia soltanto quando il campione se n'era andato. La fanciulla allora si faceva più vivace. Pareva volesse intrattenere anche Berto. Sorrideva pure a lui, guardandolo negli occhi. «È strano», pensava Ario osservandola, e sentiva crescere un lieve batticuore. «Com'è possibile che non si vergogni di Berto e non gli servi rancore? E come non sospetta che sia stato lui a spiarla e a denunciarla al padre?» Pareva davvero che Lidia dimostrasse a Berto più amicizia di prima, ma in un modo particolare, da ragazza più che da sorella. Ario aveva addirittura l'impressione che ella civettasse con lui. Ciò accadeva d'altronde di rado, le poche volte che si trovavano tutti e tre assieme. In altri momenti, Lidia non aveva quasi mai occasione di intrattenersi con Berto. Sembrava che egli la schivasse. Sempre affaccendato, si mostrava con lei brusco, come se fosse lui a doverle perdonare qualcosa, e non parlava quasi. «È meglio così», pensava Ario. «Se Berto evita Lidia e si occupa sempre di Eneo, a Eneo riuscirà più difficile riavvicinarsi a lei». Gli pareva che le amicizie stessero per consolidarsi in questo modo: Berto con Eneo e lui con Lidia. E cominciò da parte sua a evitare di occuparsi del campione. Un giorno si trovava solo con Lidia sul ballatoio e guardavano i riflessi del sole sull'acqua. Stavano seduti l'uno accanto all'altra e tacevano. A un tratto, quando meno egli poteva aspettarsi di udire la sua voce, Lidia disse: «Ti piacerebbe baciarmi?» Ario sentì un'ondata al capo e gli si chiuse la gola. «No!» rispose. Quella sera, prima di addormentarsi, riudì a lungo quelle parole. Mutava continuamente di posizione. Non riusciva a prender sonno. «Perché le ho risposto di no?» si chiedeva. «Ma forse è stato meglio così», si quietò. «Se le rispondevo di sì, avrebbe detto di no lei». Gli pareva di udirla. «Ah, ti piacerebbe, ma io non voglio che tu mi baci». I giorni seguenti la rivide sulla zattera da prodo, ora in un gruppo, ora in un altro, e non l'avvicinò. Ella usciva adesso in costume da bagno e girava fra i canottieri. A vederla muoversi in quel modo per il pontone, con le brune cosce fiorenti e la schiena nuda, Ario cominciò a provare, suo malgrado, il desiderio di deprimerla, di umiliarla. Gli sarebbe piaciuto rivelarle che Berto gli aveva raccontato di quella notte, dirle che conosceva ogni particolare, svergognarla sino in fondo. Più la osservava mentre girava in maglietta per il pontone o si soffermava in mezzo agli uomini ridendo e poggiandosi ora sull'una e ora sull'altra gamba, e più sentiva quei desideri. «Dopo quella notte?» domandò a Berto un mattino che la stava prona al sole, col costume slacciato alle spalle tra due canottieri che le parlavano. «Non si vergogna di te?» «Sai che tipo è Lidia? Con lei non si capisce niente», rispose Berto guardandola. «Ma non credo che si vergogni. Sai cosa mi ha domandato ieri?» «Cosa?» «Se sono mai stato con una donna». Ario si rizzò sul busto. «E tu?» domandò con una lieve ansia. «Cosa le hai risposto?» «Che è troppo curiosa». «Ah!» fece Ario. Allora, fissandomi, mi ha chiesto: «Perché non vuoi dirmelo?» Mi fissava sempre. Poi alzò la spalla ed esclamò: «In fondo che male c'è? Non lo fanno tutti? Io, se fossi in te, l'avrei già fatto». Raccontando, Berto guardava Ario con gli occhi spalancati e Ario lo ascoltava con un tremito in gola. «Ah, ti ha detto questo?» mormorò. «Sì. E poi sai cosa le ho detto io?» continuò Berto. «E tu? Sei mai stata con un uomo?» «Sei troppo curioso», mi ha risposto, girando sui tacchetti e voltandomi le spalle. Ma infine mi è tornata vicino e ha soggiunto: «Ci sono stata tante volte, e non solo con Eneo. Però non nel senso che intendevamo». «Ma perché me lo chiedi? Lo sai bene», ha concluso fissandomi, «che non ci sono mai stata». «È vero», osservò Ario. «Vero? Aspetta, sì», le ho risposto, «sino una settimana fa. Ma poi si è messa a ridere, che non ti so dire, e mi ha mostrato la lingua». Alcuni giorni dopo, mentre attraversava uno degli anditi interni alla canottiera, Ario intravide nella mezza oscurità le braccia e le gambe nude della ragazza che veniva verso di lui in costume. Si sentì crescere, prima ancora di riconoscerla, i battiti del cuore. «Vieni, ti faccio vedere una cosa», ella gli disse cercando la sua mano, appena furono vicini. «Non posso», schivò Ario, e il cuore gli batteva sino al cervello. «Berto mi attende». L'indomani, quando il pontone restò deserto, Berto gli disse: «Sai che mi ha baciato?» «No». «Sì, per gioco. Nemmeno io me l'aspettavo, ma...» fece Ario. «È stato così», l'interruppe Berto. «Ci siamo incontrati nell'andito scuro, quello, sai, vicino alla doccia». «Che fai qui?» le ho domandato. Poggiò la schiena alla parete e rideva. «Nulla», rispose. «E tu?» «Cerco Eneo». «Ah», fece. Restammo lì. E lei stava sempre appoggiata alla parete e mi sogguardava. «Sai?» mi domandò d'un tratto. «Come baciano le ragazze?» «Vuoi che te lo mostri?» E mi afferrò un braccio. «No», volli svincolarmi. «Allora ti insegno», rise, «come Eneo bacia me». Qui Berto tacque e guardò via. Poi soggiunse: «Aveva la bocca calda». Quello stesso giorno, dopo il tocco, Ario si trovò solo con Lidia. La zattera a quell'ora era deserta e la fanciulla prendeva il sole distesa sull'assito. Ario le si sedette vicino. «Dimmi una cosa», ella rialzò il capo dopo un po', «ti piacciono le ragazze?» Ario restò senza fiato. «Io e Berto», cominciò, e si interruppe. Non sapeva neanche lui che cosa volesse dire. «Oh!» esclamò Lidia, sollevandosi su tutto il busto. «Berto non è come te. A lui le ragazze piacciono. Non è mai uscito con qualcuna, ma io ho capito che gli piacciono». Due giorni dopo, Ario, alzato da poco, si trovava davanti al proprio pontone, intento a sbrogliare il fiocco di un cutter, quando Berto, passando per di là al timone di una iole, gli gridò, scuro in viso, una minaccia. In orgasmo, distratto agli ordini dei soci, Ario attese il suo ritorno. Appena rientrato, Berto gli venne risoluto incontro. Si avanzavano sul molo l'uno verso l'altro, guardandosi diritto negli occhi. «Ora mi salta addosso», pensava Ario, «e ci pestiamo». «Sei una spia sporca», gli gridò Berto. «Anzi, assai peggio che una spia, perché non hai detto il vero, ti sei inventato tutto». «Ma cosa vuoi dire? Sei pazzo?» domandò Ario. Già pallido a quegli insulti, era impallidito di più. «Cosa ti ho fatto? Sei un traditore! Ecco quello che sei!» gli urlò in faccia Berto. Quella parola, traditore, pareva soddisfarlo. «Sì, sei un traditore sporco come tuo padre!» «Basta!» urlò Ario e spiccò un balzo coi pugni alzati. Berto si ritrasse. «Sì», spiegò poi, più calmo. «Chi, se non te, ha detto a Lidia che sono stato io a denunciarla a papà? Come hai fatto a non ricordarti ciò che mi hai promesso quel giorno, quando abbiamo fatto pace dopo la baruffa in barca? Mi avevi giurato che non avresti mai raccontato simili fandonie, né a Lidia né a Eneo. E ora, invece, cerchi con queste storie di metterli su contro di me. Basta! Sei pazzo!» gridò Ario. «Hai le traveggole. Io non ho mai detto nulla a Lidia. Lo giuri? Lo giuro!» Berto tacque, guardandolo. Pareva interdetto, ma anche sollevato. Se non che tutto a un tratto si rabbuiò. «Non l'hai detto a Lidia? E lo giuri?» urlò. «Ma hai fatto peggio, ora capisco. Sei corso a dirlo a Eneo. Questo hai fatto!» Rosso sino agli occhi, lo afferrò al braccio e cominciò a scuoterlo. «Lasciami!» si svincolò Ario. «Se lo avessi raccontato a Lidia o a Eneo, te lo direi sul muso. Non mi fai mica paura!» Berto lasciò cadere la mano, ma era ancora scuro, in sospetto. «Che mona!» soggiunse Ario. «Quando mi vedi con Eneo? Sei sempre tu con lui!» «Mi era passato per il capo», spiegò Berto, e lo guardò con un ultimo lampo di diffidenza, «che tu l'avessi detto a Eneo e lui a Lidia. Ma se tu hai mantenuto la parola, chi può averlo detto a Lidia?» «Come mai?» cercò di interromperlo Ario. «Pensavi che a Lidia l'avesse detto Eneo? Si incontrano ancora?» Berto alzò la spalla. «E chi lo sa? Ma rispondi, se tu hai mantenuto la parola, chi può averlo detto a Lidia?» Questa volta alzò la spalla Ario. «E che importa? L'avrà pensato da sé?» Calmatosi, Berto gli raccontò. La sera precedente, mentre girava nella rimessa per aggiustare alle iole i cappucci di tela, come gli piaceva fare prima di coricarsi, aveva incontrato Lidia. Gli era venuta incontro ridendo, e guardandolo negli occhi, «Che fai?» «Lo vedi? Drizzo i cappucci», rispose Berto, e si volse al proprio lavoro, schivando di incontrare il suo sguardo. Lei lo attese girellando, e un po' fischiettava e un po' batteva i tacchetti sull'assito, come vogliosa di ballare. Berto, appena ebbe finito, spense la luce e si diresse all'uscita. Lidia lo seguì, e tutto a un tratto, prima di giungere alla doccia che si intravedeva illuminata in fondo, «Vuoi?» gli disse, «che giochiamo ancora come se io fossi Eneo e tu me?» Berto affrettò il passo. «No, no!» «Non vuoi?» «No!» Allora Lidia fu più svelta di lui. Raggiunto l'uscio, vi poggiò contro la schiena in modo da chiuderlo e far buio, e «confessalo!» cominciò a tutt'altra voce. Sei stato tu a raccontare a papà che quella sera sono stata in cabina con Eneo. No, io no, come potevo saperlo? Mi hai spiato, mi hai vista salire a bordo. Lo scrutò. Oppure te l'ha detto qualche mia amica? Non conosco le tue amiche. Ma a te piuttosto, chi è venuto a dirti che sono stato io? Questo non conta. Perché non vuoi confessare? Perché non è vero. Ricominciò a blandirlo. Ascolta, gli disse, e la sua voce di nuovo mutò, tornò quella di prima. So che è vero, ma se me lo confessi tu stesso, sarò buona con te. Vedrai. E con le dita gli sfiorò il braccio nudo. Berto si scostò. Vuoi uscire di sera con una ragazza? Gli proponeva. Ti faccio conoscere una mia amica. Parlo io con lei. Quella bionda che veniva con me al cine. No, lasciami, non posso confessare. Non è vero, scattò Berto e la spinse da parte per liberare l'uscio. Ma nello stesso istante lo raggiunse, tagliente, uno schiaffo in viso e poi due sputi caldi. So che è vero e so che sei un farabutto. Ora posso dirtelo, più sporco di tuo padre, tu che gli hai fatto lume. E uscì, lasciandolo intontito lì al buio. Eh? Cosa dici? Concluse Berto. Ario taceva. Respirò due o tre volte e fece per schiarirsi la voce. Lo sconvolgeva la nuova idea che, da un istante all'altro, era costretto a farsi di Lidia. Si sentiva stringere il petto e aveva la gola chiusa. Ma allora, riprendeva a domandargli Berto, chi può averla messa su contro di me? Fece. Non ascoltava e stentava a ritrovare i pensieri. Sentiva le mani torpide e tante lievi punture ai polpastrelli. Chi può averla messa su contro di te? Si riprese. Nessuno. Per conto mio, Lidia sospetta soltanto che a vederla e a denunciarla possa essere stato tu e sperava di fartelo confessare in un modo o nell'altro. Tacquero. Ma è poi vero? Si drizzò a un tratto Ario e scrutò Berto con occhi torvi tutto ciò che mi vai raccontando di Lidia. E non ti sarai inventato anche le storie dell'altro giorno? Di lei che ti ha chiesto se sei mai stato con una donna e che ti ha mostrato come bacia Eneo? Gli pareva, ora, che tutto, persino la scena notturna di Lidia esaminata a letto dal padre, non fosse che una fantasia pazza di Berto. Sì, doveva essersi inventato tutto per il solo piacere di raccontarlo a lui. Più ci pensava, ricordando Lidia come l'aveva veduta, tranquilla, ridente quei giorni, e più si persuadeva che Berto aveva mentito. Sì, s'era inventato ogni cosa, e anche le sue rabbie quel giorno in barca e oggi lì sul molo le aveva simulate. Restava soltanto quel piacere esaltato di calunniare Lidia e di accapigliarsi con lui. Tornò a dirglielo. Berto non si offese. Alzò la spalla e rise. «Vedo che sbaglio», si limitò a dire, «a trattarti da uomo». «Ma Lidia, sta a vedere», lo guardò male Berto, «che ti fideresti più di lei che di me». Tacque e pareva incerto se dire qualcos'altro. Infine si decise. «Non puoi immaginarti che tipo sia. L'altro giorno, per esempio, questo non te l'ho raccontato, quando le chiesi se fosse mai stata con un uomo, prima si mise a ridere e mi mostrò la lingua. Poi esclamò, no, non ancora, ma appena posso ci voglio andare per fare dispetto a papà. Con Eneo? Le ho domandato. Con Eneo o con un altro? Meglio con Eneo, le ho detto io. Ti pare? Ha risposto. Ario ascoltò senza respiro. Gli pareva che il petto gli scoppiasse. Avrebbe voluto aggredire Berto, saltargli al collo. Basta, basta! Stava per gridare. Non capisci che sei un farabutto? Che ha ragione lei quando dice che sei un farabutto? Ma non aveva più voce. Sì, hai ragione, continuava Berto. Lidia sospetta soltanto che a spiarla e a denunciarla possa essere stato io. E ieri sera voleva assicurarsi se è vero, farmi cantare. Per questo, ora lo capisco, da tanti giorni mi gira intorno e... Ma Ario non lo ascoltava più. È pazzo, pensava. Finge, si inventa tutto. Di lì a poco si lasciarono e Ario si sentì subito sollevato. No, Non può essere, si diceva ritornando al suo pontone. Ma come non l'ho capito sin dal primo giorno? Era la puntata numero 11 dell'Onda dell'Incrociatore di Pier Antonio 48 Gambini, letta da Ferdinando Bruni, con le musiche dei Pullman, Hatta, dei Balmaria, di Visadero, dei Clogs, Turn 13 e Guitar 13 e di John Metcalf, Parcel. Sono musiche curate da Luigi Iavarone, che si occupa anche della regia di questo ciclo di Ad Alta Voce, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini. Le puntate si possono riascoltare sul sito RaiPlayRadio.it.